Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 2 marzo 1986. Intenta a mangiare una coppa di gelato alla vaniglia con un cucchiaino di legno, la signora Threadgood parlava a Evelyn dei tempi della depressione. Morì parecchia gente in un modo o nell'altro. Fu dura per tutti, ma soprattutto per i negri, perché partivano svantaggiati. Sipsi disse che metà degli abitanti di Trutville sarebbe morta congelata o di stenti se non fosse stato per Bill Ferrovia. Questo nome a Evelyn suonava nuovo. Chi era Bill Ferrovia? La signora Threadgood si meravigliò. Non le ho mai raccontato di lui? No, credo di no. Oh, era un famoso bandito. Dicevano che fosse un uomo di colore che saliva sui treni di notte per gettare a terra cibo e carbone della riserva del governo. E i negri che vivevano lungo i binari all'alba andavano a raccogliere ogni cosa e se ne tornavano a casa veloci come il vento. Non credo che lo abbiano mai preso. Forse non hanno neppure mai scoperto chi fosse. Grady Kilgore, un ispettore delle ferrovie amico di Iggy, andava tutti i giorni al caffè e Iggy ridendo gli diceva: «Ho sentito che il vecchio Bill Ferrovia è ancora libero. State battendo la fiacca, ragazzi?» E lui si arrabbiava così tanto che a un certo punto i treni pullulavano di poliziotti e offrirono anche un abbonamento gratuito sulle ferrovie con scadenza illimitata a chiunque avesse informazioni sul bandito, ma nessuno si fece avanti. Iggy si divertiva come una matta a stuzzicare Kilgore. Ma restarono sempre buoni amici. Anche lui faceva parte del club dei cetrioli sott'aceto. Di che cosa? La signora Threadgood rise. Ah, il club dei cetrioli sott'aceto era stato fondato da Iggy, Grady e Jack Butts. Ma che razza di club era mai? Dicevano che fosse un club per fare quattro risate insieme, ma in realtà era un gruppo eterogeneo, formato dagli amici di Iggy, da qualche ferroviere, da Eva Bates e Smokey Lonesome. Praticamente non facevano altro che bere whisky e inventare bugie. Ti guardavano dritto negli occhi e ti raccontavano una menzogna, quando sarebbe stato meglio per tutti se avessero detto la verità. Il loro divertimento era inventare bugie, bugie assurde e inutili. Una volta Ruth era appena tornata dalla chiesa e Iggy, che era seduta con i suoi amici, le disse: «Ruth, mi dispiace dovertelo dire, ma mentre eri fuori, Stamp ha inghiottito una pallottola calibro 22». Quando Ruth cominciò ad agitarsi, Iggy continuò: «Non ti preoccupare, sta benone. L'ho portato dal dottor Hadley, che gli ha dato mezza bottiglia di olio di castoro. Poi ha detto che potevamo portarlo a casa, ma ha raccomandato di non puntarlo contro nessuno». Evelyn rise. «Come puoi immaginare», continuò la signora Threadgood, «Ruth non aveva grande simpatia per quel club». Iggy era il presidente e convocava sempre riunioni segrete. Secondo Cleo, quelle riunioni non erano altro che accanite partite di poker, ma tuttavia era sicuro che il club facesse anche qualche opera buona. Solo che non lo avrebbero mai ammesso, anzi, respingevano l'insinuazione ogni volta. Ce l'avevano soprattutto con il predicatore Battista, il reverendo Scroggins, perché era antialcolista. Ogni volta che qualcuno di passaggio domandava dove si potevano comprare whisky o esche vive, lo mandavano a casa del predicatore. Il poveretto andava fuori dai gangheri. Sipsi era l'unica socia di colore perché era capace di raccontare bugie bene quanto tutti gli altri. Raccontò loro di quella donna che aveva aiutato a partorire. Disse di averle dato una cucchiaiata di tabacco da fiuto e che quella starnutì tanto forte che il bambino uscì come una palla di cannone e finì nell'altra stanza. «Oh no!» esclamò Evelyn. «Oh sì!» Poi raccontò loro della sua amica Lizzie di Trutville, che mentre era incinta aveva sempre voglia di amido. Lizzie cominciò a mangiarlo direttamente dalla scatola a manciate e il bambino, quando nacque, era bianco come la neve e rigido come un pezzo di legno. «Oh, questa poi!» «Potrebbe essere vero, Evelyn. So per certo che alcune di quelle donne di colore mangiano l'argilla dei campi.» «Oh, non posso crederlo!» «Eppure l'ho sentito dire, o forse erano gessetti da lavagna, non ricordo bene, in ogni caso argilla o gessetti.» Evelyn scosse la testa sorridendo all'amica. «Oh, signora Threadgood, lei riesce sempre a farmi ridere.» La signora Threadgood fu contenta di sentirselo dire. «Sì, mi piace veder ridere la gente.» Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 1 dicembre 1938, nevica a Whistle Stop. Che festa! È nevicato! Whistle Stop sembrava il Polo Nord la settimana scorsa. Esiste qualcosa di più bello delle bacche rosse dell'agrifoglio ricoperte di neve? Secondo me no, ma purtroppo qui nevica solo una volta ogni 10 anni. La mia dolce metà, che crede di saper guidare in ogni condizione, aveva deciso di portare i suoi vecchi cani da caccia a fare un giro ed è finito in un fosso in First Street. Così, per tutto il mese prossimo, fino a quando la nostra auto non sarà riparata, mi vedrete fare l'autostop ogni mattina. Sì, la mia dolce metà è quella stessa persona che andò a fare un giro in macchina una volta che grandinava con chicchi grossi come palle da baseball e ci vollero 3 settimane per far sostituire il parabrezza. Ed è la stessa persona che mentre pescava sul fiume in barca a remi venne colpita dal fulmine. Quindi la prossima volta che c'è brutto tempo in arrivo e incontrate Wilbur, mandatemelo a casa e io lo chiuderò a chiave nell'armadio. Non vorrei che un uragano se lo portasse via chissà dove. Non avrei più nessuno con cui bisticciare. Ho sentito dire che Bill Ferrovia ha svaligiato 5 treni in una sola settimana. Ho incontrato Gladys Kilgore al Salone di Bellezza e mi ha detto che suo marito Grady, che lavora per le ferrovie, è praticamente impazzito. Per finire, se Bill Ferrovia mi sta leggendo, perché non getta da uno di quei treni una macchina nuova prima che Grady riesca ad arrestarlo? Mi farebbe tanto comodo. Dot Wims. Caffè di Whistlestop, Alabama. 1° dicembre 1938. Il sole era appena sorto dietro il caffè e Iggy svegliò Stump scuotendolo per le spalle. «Alzati, alzati, presto, vieni a vedere!» Lo trascinò alla finestra perché guardasse fuori. Il campo era coperto da una coltre bianca. Stump spalancò la bocca. «Che cos'è?» Iggy rise. «È neve!» «Davvero?» «Sì?» Stump frequentava la terza ed era la prima volta in vita sua che vedeva la neve. Ruth li raggiunse alla finestra in camicia da notte e guardò fuori anche lei, non meno sorpresa del figlio. Tutti e tre si vestirono in fretta e furia e 5 minuti più tardi erano già in giardino. La neve era alta solo 5 centimetri, ma loro vi si rotolarono e fecero a pallate. Si potevano quasi sentire le porte aprirsi in tutta la città e i bambini gridare di meraviglia. Alle 7 del mattino Stamp e Iggy avevano già costruito un pupazzo di neve e Ruth preparò loro gelato di neve con latte e zucchero. Iggy decise di accompagnare Stamp a scuola a piedi e quando guardarono lungo i binari non videro altro che bianco fino all'orizzonte. Stamp era ancora così eccitato che saltava invece di camminare e cadde ben 2 volte. Iggy decise di raccontargli una storia per calmarlo. «Ti ho mai detto di quella volta che Smokey e io giocammo a poker con Pig Iron Sam?» «No, chi è Pig Iron Sam?» «Vuoi dirmi che non hai mai sentito parlare di Pig Iron, il giocatore di poker più scarso di tutto l'Alabama?» No? Devi sapere che Smokey e io stavamo giocando a poker da tutta la notte a Gate City e io avevo appena cominciato a vincere. Andai avanti a vincere per un'oretta e Pig Iron era sempre più furente, ma che cosa potevo farci? Non potevo alzarmi dal tavolo, non mentre stavo vincendo, sarebbe stato scorretto. E più vincevo, più lui si arrabbiava e ben presto cominciò a sbraitare. Prese di tasca la pistola, la posò sul tavolo e disse che avrebbe ucciso il primo che gli avesse distribuito un'altra volta delle carte tanto brutte. Stamp trovava la storia vincente. A chi toccava dare le carte? È proprio questo il bello, aveva scordato che era il suo turno e si distribuì una coppia di due. E così, sai che cosa fece? Prese la pistola e si sparò alla tempia, lì, davanti a tutti. Un uomo di parola, non c'è che dire. E tu l'hai visto? Certo che l'ho visto. Aveva una coppia di due, me lo ricordo benissimo. Stamp stava meditando sulla storiella quando vide qualcosa spuntare dalla neve a pochi passi dai binari. Corse subito a vedere di che cosa si trattava. «Guarda, zia Iggy, un barattolo di Krauty è ancora chiuso!» Solo allora comprese, e raccogliendo il barattolo con reverenza bisbigliò: «Scommetto che è stato Bill Ferrovia a buttarlo giù dal treno. Credi che sia possibile, zia Iggy?» Iggy esaminò il barattolo. «Potrebbe come, ragazzo? Rimettilo dove l'hai trovato, così il prossimo negro che passa potrà prenderselo!» Stamp depositò il barattolo nel punto esatto da cui l'aveva prelevato, come fosse un oggetto sacro. «Accidenti!» Prima la neve, ora un barattolo che forse era stato toccato da Bill Ferrovia. Era troppo in un giorno solo. Continuarono a camminare e dopo qualche minuto Stamp disse: «Scommetto che Bill Ferrovia è l'uomo più coraggioso che ci sia mai stato al mondo, non credi, zia Iggy?» «Coraggioso lo è senz'altro. Non credi che sia il più coraggioso?» Iggy ci pensò su. «Forse il più coraggioso? No, anzi, no, senz'altro. Uno dei più coraggiosi, ma non il più coraggioso.» Stump ci rimase male. «E chi è il più coraggioso di Bill Ferrovia?» «Big George.» «Il nostro Big George? Proprio lui! Che cosa ha fatto?» «Beh, tanto per cominciare, non sarei qui se non fosse per lui.» «Vuoi dire qui oggi?» «No, voglio dire al mondo. Sarei stata mangiata dai maiali.» «Parli sul serio?» «Sì, signore. Quando avevo 2 o 3 anni, io, Buddy e Julian stavamo giocando intorno al porcile, quando mi arrampicai sullo steccato e caddi a testa in giù dall'altra parte.» «Davvero?» «Certo, i maiali cominciarono tutti a correre verso di me. Sai come sono voraci, divorerebbero qualunque cosa ed è risaputo che mangiano anche i bambini.» «Non lo sapevo.» «Beh, Adesso lo sai. Comunque mi alzai e cominciai a scappare, ma caddi. Mi avevano quasi raggiunta quando Big Giorgio mi vide e saltò nel porcile, nel bel mezzo del branco di maiali, e cominciò ad allontanarli a calci. Parlo di maiali di 150 kg l'uno, eh? A uno Big Giorgio li mandò a finire in un angolo lontano da me, come se fossero stati sacchi di patate. Riuscii a tenerli a distanza abbastanza a lungo perché Buddy potesse strisciare sotto lo steccato e aiutarmi a uscire. Però, non avevi mai notato le cicatrici sulle braccia di Big George? Certo, sono i morsi dei maiali, ma Big George non lo raccontò mai a papà perché sapeva che papà avrebbe ucciso Buddy per avermi portata laggiù. Non me l'avevate mai detto. Adesso sai anche questo. Conosci altre persone coraggiose? La settimana scorsa zio Julian ha sparato a un cervo. Ce ne deve essere voluto del coraggio. Beh, c'è coraggio e coraggio, puntualizzò Iggy. Non è necessario essere degli eroi per sparare a un povero animale indifeso. Chi altri conosci che sia coraggioso oltre a Big George? Vediamo un po'. A parte Big George, direi che tua madre è una delle persone più coraggiose che abbia mai conosciuto. La mamma? Sì, la mamma. Oh, non è vero, ha paura di tutto, persino degli scarafaggi. Che cosa ha mai fatto di speciale? Una cosa, fece una cosa molto tempo fa. Che cosa? Ah, non ha importanza. Tu me l'hai chiesto e io ti ho risposto. Tua madre e Big George sono le due persone più coraggiose che conosco. Dici sul serio? Lo giuro. Stamper era rimasto molto colpito. Però, la mamma. C'è qualcos'altro che devi sempre ricordare. Ci sono persone magnifiche su questa terra che se ne vanno in giro travestite da normali esseri umani. Non scordarlo mai, Stampa, hai capito? Il ragazzo la guardò negli occhi. Va bene, non lo scorderò. Mentre continuavano a camminare lungo i binari, un cardinalino rosso si alzò da un albero coperto di neve e fece il suo volo di Natale attraverso l'orizzonte bianco. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama. 9 marzo 1986. In passato, durante quelle lunghe e interminabili notti oscure in cui era rimasta sveglia sudando per la paura e cercando di allontanare da sé visioni di morte, tubi e tumori, Evelyn avrebbe voluto chiedere aiuto a Ed, che dormiva accanto a lei. Ma non l'aveva mai fatto ed era rimasta sdraiata nel pozzo nero del suo inferno personale fino al mattino. Ultimamente, per allontanare il pensiero della pistola puntata contro la tempia, chiudeva gli occhi e si sforzava di udire la voce della signora Threadgood. Se respirava profondamente e si concentrava, le sembrava quasi di essere a Whistle Stop. Camminava per la strada e, dopo essere entrata nel salone di bellezza di Opal, le pareva quasi di sentire l'acqua calda che le scorreva sui capelli, per poi diventare tiepida e infine fredda. Dopo essersi fatta pettinare, si fermava a conversare con Dot Wims all'ufficio postale e poi proseguiva fino al caffè dove c'erano Stamp, Ruth e Iggy. Ordinava il pranzo, mentre Wilbur, Wims e Grady Kilgour la salutavano con la mano. Sipsy e Onze le sorridevano e dalla cucina giungeva la voce della radio. Tutti quanti le domandavano come stava. Il sole brillava sempre e lei aspettava con fiducia il domani. E così, da qualche tempo a questa parte, dormiva di più e pensava sempre meno alla pistola. Quando si svegliò quella mattina, Evelyn si rese conto che non vedeva l'ora di arrivare alla casa di riposo. La vita di Whistle Stop e del caffè, ora che ne aveva sentito parlare per settimane seduta in quel salottino, le sembrava più reale della propria esistenza con Ed a Birmingham. Quando arrivò, la sua amica era come sempre di buon umore e fu felice di accettare la barretta ai cereali senza mandorle che aveva chiesto la settimana precedente. A metà barretta la signora Threadgood si stava domandando che fine avesse fatto un certo vagabondo che aveva conosciuto anni prima. Chissà che cosa ne è di Smokey Lonesome, probabilmente sarà già morto. Ricordo ancora la prima volta che venne al caffè. Stavo mangiando un piatto di pomodori verdi fritti quando lui bussò alla porta sul retro chiedendo cibo. Iggy andò in cucina e poco dopo tornò con quel poveraccio, tutto sporco per quanto aveva camminato lungo la ferrovia. Gli disse di andare in bagno a lavarsi e poi di venire a mangiare. Andò a preparargli qualcosa e intanto commentò che non aveva mai visto un uomo dall'aspetto più solitario. Lui aveva detto di chiamarsi Smokey Phillips, ma Iggy lo soprannominò Smokey Lonesome, Smokey Solitario, e da quel giorno ogni volta che lo vedeva arrivare diceva: «Ecco il nostro Smokey Lonesome». Non credo che avesse famiglia, poveraccio, e Ruth e Iggy ebbero pietà di lui perché sembrava mezzo morto e gli permisero di installarsi in quella vecchia baracca sul retro del caffè. Ogni tanto, 2 o 3 volte l'anno, al vecchio Smokey veniva nostalgia della sua vita di vagabondo e spariva per qualche giorno. ma prima o poi tornava sempre, di solito ubriaco e sfatto, e allora si chiudeva nella baracca e si riposava. Non ha mai posseduto nulla in vita sua, aveva soltanto un coltello, una forchetta, un cucchiaio che portava nella tasca della giacca e un apriscatole che teneva nel nastro del cappello. Diceva di non volere pesi inutili. Credo che quella baracca fosse l'unica casa che avesse mai avuto, e se non fosse stato per Ruth e Iggy, forse sarebbe morto di fame. Ma secondo me, continuava a tornare perché si era innamorato di Ruth. Non lo disse mai, ma lo si capiva da come la guardava. Sa, sono contenta che il mio Cleo sia morto per primo. È difficile che un uomo riesca a vivere senza una donna. Per questo quasi tutti muoiono subito dopo le loro mogli. Si sentono sperduti. Fanno pena. Prende il vecchio Dunaway, che c'è qua. Sua moglie è morta da meno di un mese e lui sta già importunando tutte quante. È per questo che gli danno quei tranquillanti, per calmarlo. Si crede un Romeo. Proprio lui. Assomiglia a un vecchio tacchino con tanto di pappagorgia e tutto il resto. Ma chi sono io per dirlo? Per quanto brutto un uomo possa essere, ci sarà sempre una donna che lo troverà il più bello del mondo. Chissà che un giorno non riesca a far innamorare di sé una di queste vecchiette. Chicago, Illinois, 3 dicembre 1938. West Madison Street a Chicago non era diversa da Pratt Street a Baltimora, da South Main Street a Los Angeles o dalla Terza Strada di San Francisco. Dappertutto c'erano le stesse missioni, gli stessi affittacamere e alberghi a poco prezzo, gli stessi negozi di abiti usati e le code per la minestra dei poveri, i banchi dei pegni, le rivendite di liquori, i bordelli frequentati da quelli che venivano gentilmente chiamati gli uomini delusi. L'unica cosa che quell'anno rendeva Chicago diversa da tutti gli altri posti era che Smokey Lonesome, che di solito viaggiava solo, si era trovato un amico. Era solo un bambino, a dire il vero, ma gli teneva compagnia. Si erano conosciuti un mese prima nel Michigan. Era un ragazzino grazioso e con il viso fresco, con un maglioncino azzurro sopra una camicia marrone e pantaloni anch'essi marrone con l'orlo consumato. La sua pelle era liscia come quella di un neonato. Aveva avuto problemi a Detroit con dei pederasti che avevano cercato di sodomizzarlo, così aveva chiesto a Smokey di viaggiare per un po' di tempo insieme. Smokey gli aveva detto la stessa cosa che si era sentito dire tanti anni prima da un vagabondo più vecchio di lui. Torna a casa finché puoi, ragazzo. Sta lontano da questa vita, perché quando hai pisciato una volta fuori da un carro merci, dopo diventa difficile tornare indietro. Ma non servì, esattamente come non era servito per lui. Così Smokey decise di permettere al ragazzo di seguirlo. Era un tipo divertente. Un giorno mendicò dalla mattina alla sera nella speranza di racimolare un decino. Voleva vedere Sally Rand ballare con il ventaglio cantando White Birds in the Moonlight, come c'era scritto sul manifesto. Non riuscì a mettere insieme il decino, ma la cassiera ebbe pietà di lui e lo lasciò entrare gratis. Mentre aspettava che uscisse dal teatro, Smokey aveva raggranellato quanto bastava per due bistecche al Tile Grill. Quel giorno non avevano ancora messo nulla sotto i denti, tranne un barattolo di würstel e delle gallette stantie. Stava fumando una Lucky Strike trovata in un pacchetto di sigarette che qualcuno aveva gettato via, quando il ragazzo uscì con l'aspetto di chi ha toccato il cielo con un dito. Oh, Smokey, avresti dovuto esserci. È la cosa più bella e delicata che abbia mai visto. Era come un angelo disceso giù dal cielo. E per tutta la cena non parlò che di lei. Quando ebbero mangiato le bistecche, mancavano loro 30 centesimi per potersi permettere una stanza d'albergo. Così andarono al Grants Park, dove speravano di trovare ancora libero uno dei tuguri di carta catramata, cartone e legno costruiti dai vagabondi. Furono fortunati. Prima di mettersi a dormire, il ragazzo disse, come ogni sera: «Raccontami dei posti in cui sei stato e di quello che hai fatto, Smokey. Ti ho già raccontato tutto. Lo so, ma voglio sentirlo ancora». Smokey gli parlò di quando era andato a Baltimora e aveva trovato lavoro alla White Tower, dove facevano hamburger e tutto era così pulito e lucente che si sarebbe potuto mangiare direttamente sulle piastrelle bianche e nere del pavimento. E poi di quando aveva lavorato nella miniera di carbone a Pittsburgh. «Sai, ci sono dei vagabondi che sarebbero capaci di mangiare anche un topo, ma io non potrei mai. Li ho visti salvare troppe vite. Hanno salvato anche la mia una volta. I topi sono i primi a sentire l'odore del gas in una miniera». Una volta io e un altro minatore eravamo proprio giù, in uno dei pozzi più profondi, quando all'improvviso vedemmo passare almeno 200 topi che correvano a non meno di 90 km all'ora. Non sapevo che cosa pensare, ma il mio amico mollò il piccone e gridò: «Scappa!» Obbedii e mi salvai la vita, e ancora oggi se vedo un topo lo lascio andare per i fatti suoi. Sì, per me i topi sono in cima alla lista degli esseri viventi. Il ragazzo, che si era quasi addormentato, mormorò: Qual è il lavoro peggiore che tu abbia mai fatto, Smokey? Il peggiore? Vediamo un po'. Ho fatto molte cose che un uomo per bene non farebbe mai, ma il lavoro peggiore l'ho avuto nel 28, a Vineyard Bend, in Alabama, in quella fabbrica di trementina. Da 2 mesi non mangiavo altro che maiale e fagioli ed ero così a terra che un nichelino mi sembrava grande quanto una pagnotta, altrimenti non avrei mai accettato quel posto. Gli unici bianchi che si prestavano a lavorare in quella fabbrica erano gli acadiani e venivano chiamati i negri della Trementina. Quel lavoro poteva uccidere un bianco. Io resistetti solo 5 giorni e poi stetti male come un cane per 3 settimane. Ti va negli occhi, nella pelle, dovetti bruciare i miei vestiti. All'improvviso Smokey tacque e si mise seduto. Nel momento stesso in cui sentì correre e gridare, capì che era arrivata la legione. Negli ultimi 2 mesi la legione americana aveva fatto più di un'incursione negli accampamenti dei vagabondi, distruggendo qualunque cosa allo scopo di ripulire la città dalle orde di senzatetto che l'avevano invasa. Andiamocene, usciamo di qui! Gridò Smokey, e cominciarono a correre insieme agli altri 122 residenti di quello strano villaggio. Alle loro spalle udivano le urla degli uomini che, armati di sbarre di ferro, radevano al suolo i tuguri e strappavano la carta catramata. Smokey corse a sinistra e, appena ebbe raggiunto un cespuglio sufficientemente fitto, si sdraiò a terra perché sapeva che con i polmoni deboli che si ritrovava non sarebbe mai riuscito a distanziare gli inseguitori. Si appiattì al suolo e rimase nascosto finché tutto non fu finito. Il ragazzo poteva correre per ore, lui lo avrebbe raggiunto più tardi da qualche parte. Quando la legione se ne fu andata, tornò all'accampamento per vedere se qualcosa fosse rimasto in piedi. La piccola città di carta catramata era stata rasa al suolo e i mucchi di cartone, carbone e legna non gli arrivavano neppure alle ginocchia. Stava per andarsene quando udì una voce. Smokey? Il ragazzo era sdraiato a terra a meno di 5 metri da quello che era stato il loro rifugio. Stupito, Smokey lo raggiunse. Che cos'è successo? Lo so che mi avevi detto di non slacciarmi mai le scarpe, ma mi facevano male, ho inciampato. Sei ferito? Credo che mi abbiano ucciso. Smokey si chinò su di lui e vide la ferita sul lato destro della testa. Il ragazzo lo fissava con gli occhi lucidi. Sai, Smokey, pensavo che fare il vagabondo sarebbe stato divertente, ma adesso ho capito che non è così. Quindi chiuse gli occhi e morì. Il giorno dopo, Smokey chiamò 2 tizi che conosceva e lo seppellirono nel cimitero dei vagabondi fuori Chicago. Ed Elmo Williams lesse il passo a pagina 311 del libricino dell'esercito della salvezza che portava sempre con sé. Rallegrati per l'amico perduto, finalmente ha trovato la felicità. Il suo spirito in cielo si è involato con un grido di libertà. Non avevano mai saputo il suo nome, così infissero a terra un pezzo di legno schiodato da una cassa con la scritta Il ragazzo. Quando gli altri uomini se ne andarono, Smokey si trattenne ancora un minuto sulla tomba per dirgli addio. «Ebbene, ragazzo», mormorò, «almeno sei riuscito a vedere Sally Rand, ne è valsa la pena». Poi se ne andò alla stazione con l'idea di prendere un treno diretto a sud, in Alabama. Voleva andarsene da Chicago. Il vento che sibilava tra le case era talmente freddo da far lacrimare gli occhi. Il giornale della signora Weems. Bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 8 dicembre 1938. Attenti alla dinamite. Raccomandate ai vostri figli di non giocare vicino allo scalo ferroviario perché ci stanno mettendo la dinamite. La mia dolce metà mi ha detto che mentre si trovava a Nashville qualche giorno fa ha sentito parlare di un tale che per errore ha dato un morso a un detonatore e si è fatto saltare le labbra. Opal dice che l'altro giorno in negozio c'era una tale ressa con tutte che vogliono farsi belle per il banchetto della Stella d'Oriente, che qualcuno ha preso per sbaglio un cappotto non suo. Chi ce l'ha è pregato di restituirlo. La Chiesa Battista ha organizzato una gita e Peggy Headley è stata dimenticata per distrazione nel parcheggio, ma è riuscita a raggiungere da sola il gruppo. I Geroot sabato scorso hanno reso felici alcuni dei nostri bambini portandoli all'Avondale Park a vedere Fancy, la famosa elefantessa che piace tanto a grandi e piccini. Tutti quanti si sono fatti fotografare con Fancy e le fotografie saranno pronte giovedì. Il dottor Cleo Threadgood è tornato a casa venerdì scorso dopo una visita alla clinica Mayo, dove aveva portato il piccolo Albert per alcuni esami. Purtroppo è tornato a casa con cattive notizie per Ninni. Possiamo solo sperare che i medici si siano sbagliati. Cleo sarà reperibile nel suo studio da lunedì. Dot Wims. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 15 marzo 1986. Quel giorno erano tutte prese a mangiare salatini e a chiacchierare, o almeno la signora Threadgood lo era. Sa, speravo di tornare a casa per Pasqua, ma forse non ce la farò. La signora Otis non si è ancora adattata, però si è iscritta al corso di economia domestica che avrà inizio tra qualche giorno. Si è iscritta anche sua suocera. Genina ha detto che a Pasqua nasconderanno delle uova in giardino e inviteranno dei bambini perché vengano a cercarle. Dovrebbe essere divertente. La Pasqua mi è sempre piaciuta, fin da quando ero piccola. Mi piaceva anche tutto quello che lo accompagnava. Quando eravamo ragazzi, tutti i sabati sera prima di Pasqua, ci sedevamo in cucina a colorare le uova. Ma era sempre mamma Threadgood a colorare l'uovo d'oro. La mattina di Pasqua ci vestivamo tutti a nuovo dalla testa ai piedi. Dopo la chiesa, mamma e papà ci mettevano sul tram per Birmingham con un biglietto di andata e ritorno e loro intanto nascondevano almeno 200 uova in tutto il giardino. C'erano premi di ogni tipo, ma il premio più ambito era riservato a chi trovava l'uovo d'oro. Avevo 13 anni l'anno in cui trovai l'uovo d'oro. Stavamo frugando in giardino da almeno 2 ore e nessuno l'aveva ancora scovato. Io mi stavo riposando sul retro quando per caso vidi qualcosa scintillare sotto l'altalena. Era proprio lui, l'uovo d'oro, nascosto nell'erba. Sembrava che stesse aspettando solo me. Essie Roos se la prese moltissimo. Avrebbe voluto trovarlo lei quell'anno perché il premio era un grande uovo di porcellana trasparente, giallo limone, spruzzato di polverina d'argento. Se ci guardavi dentro, vedevi una famigliola in miniatura. C'erano la mamma, il papà, due bambini e un cane davanti a una casetta che assomigliava alla nostra. Avrei potuto guardare dentro quell'uovo per ore, ma chissà che fine ha fatto adesso. Credo che sia andato venduto alla fiera di beneficenza che tenemmo durante la Prima Guerra Mondiale. Pasqua era sempre un giorno fortunato per me. Fu proprio quel giorno che il buon Dio mi annunciò che avrei avuto Albert. A volte, quando penso ai problemi degli altri, mi accorgo di quanto sono stata fortunata a incontrare Cleo. Non avrei potuto sperare in un marito migliore. Non guardava le altre donne, non beveva ed era simpatico. Non mi sto vantando perché non mi piace farlo, ma è la verità. Era un uomo intelligente e la sua intelligenza serviva anche a me. Gli dicevo sempre che era il mio vocabolario. Quando dovevo scrivere qualcosa gli chiedevo: Cleo, come si scrive questa parola? E lui lo sapeva sempre. E conosceva bene la storia. Potevi chiedergli qualunque data e lui te la diceva senza doverci pensare neppure un momento. E non ho mai visto nessuno prendere tanto sul serio la professione di medico. Gli sarebbe piaciuto diventare un chirurgo, gli si spezzò il cuore quando papà morì e lui dovette abbandonare la facoltà di medicina, ma non se ne lamentò mai una sola volta. Tutti gli volevano bene, può chiederlo a chiunque l'abbia conosciuto e le diranno che al mondo non c'è mai stato un uomo più generoso di Cleo Threadgood. Ma le ragazze non capiscono nulla, vogliono un uomo brillante per vedersi invidiate da tutte, vogliono un uomo romantico, mentre Cleo era un tipo tranquillo. All'inizio non mi piaceva molto, ma io piacevo molto a lui. Una volta mi confidò di avere preso la decisione di sposarmi la prima sera dopo il suo ritorno dal college, quando mi vide in cucina a tagliare biscotti sul tavolo di metallo con Sipsy. Andò in salotto, dove c'erano mamma e papà Threadgood, e disse: «Voglio sposare quella ragazza che sta tagliando i biscotti in cucina». Aveva deciso così, su due piedi. Ma questo era tipico dei Threadgood. Avevo solo 15 anni, allora, e gli dissi che non mi interessava sposarmi con nessuno, che ero ancora troppo giovane. Lui rispose che me lo avrebbe chiesto di nuovo l'anno dopo, e lo fece, ma io ancora non ero pronta. Lo sposai a 18 anni, ma nemmeno allora mi sentivo pronta. All'inizio temevo che Cleo non fosse quello giusto, e dissi a mamma Threadgood che forse avevo sposato l'uomo sbagliato. Lei mi rispose di non preoccuparmi perché avrei imparato ad amarlo. Guardò Evelyn. Chissà quante persone ci sono che non riescono a sposare la persona che vorrebbero e finiscono con quella che gli altri hanno scelto per loro. Ma io, quando penso che sono stata a un passo da rifiutare Cleo e da rinunciare a tutti gli anni di felicità che ho vissuto con lui, sento ancora un brivido nella schiena. Naturalmente, quando lo sposai ero vergine, sorrise. Più vergine di così non avrei potuto essere. Non sapevo nulla di sesso e non avevo mai visto un uomo nudo. E c'è da aver paura se non si è preparate. Ma Cleo fu tanto dolce con me e a poco capì come dovevo fare. In tanti anni di matrimonio non ci siamo mai detti una sola parola acida. Per me lui era una madre, un padre, un marito e un maestro. Tutto quello che si può desiderare in un uomo, insomma. E quanto soffrivo quando dovevamo separarci. Prima ci fu la guerra, poi dovetti tornare a casa dalla mamma mentre lui frequentava il corso di chiropratica. Cleo si era fatto da sé, non aveva mai ricevuto alcun aiuto, non perdeva tempo a lamentarsi lui, agiva e basta, era fatto così. Per anni cercammo di avere un bambino senza riuscirci, ma lui non mi disse mai nulla che potesse farmi sentire in colpa e so quanto ci tenesse ad avere un figlio. Alla fine, quando il medico mi spiegò che avevo l'utero retroverso e per questo non potevo restare incinta, Cleo mi abbracciò e mi disse: "Non importa, tesoro, tutto quello che mi serve al mondo sei tu", e non mi fece mai sentire diversa. Ma quanto desideravo dargli un bambino! Continuavo a pregare e a dire: "Signore, se è per qualcosa che ho fatto, se è per questo che mi hai resa sterile, fai in modo che non sia Cleo a doverne soffrire." Fu il mio cruccio per anni. Poi, una domenica di Pasqua, stavo seduta in chiesa e il reverendo Scroggins ci stava raccontando la storia di nostro Signore asceso al cielo, quando chiusi gli occhi e pensai a quanto sarebbe stato bello poter alzare le braccia e salire in paradiso con Gesù, e poi ridiscendere portando a casa un angioletto per Cleo. Mentre stavo pensando questo, un raggio di sole penetrò attraverso la vetrata e mi illuminò. Era una luce tanto accecante che dovetti chiudere gli occhi, e per tutto il resto del sermone rimasi così, come segnata da quel dito divino. Il reverendo Scroggins più tardi mi disse che non era riuscito a staccarmi gli occhi di dosso mentre parlava, che i miei capelli sembravano aver preso fuoco e il mio volto scintillava. "Hai scelto il posto giusto questa domenica, signora Threadgood", mi disse. Ma io avevo già capito che in quel modo Dio voleva avvertirmi di aver esaudito la mia preghiera. Alleluia! Cristo è risorto, il Signore è risorto! Avevo 32 anni quando nacque Albert, e a questo mondo non si è mai visto un padre più felice di Cleo Threadgood. Albert era un bel bambino, pesava 4 chili abbondanti. Vivevamo ancora con la famiglia a quell'epoca e mamma Threadgood e Sipsy erano al piano di sopra con me, mentre Cleo era in cucina con tutti gli altri ad aspettare. Erano venuti anche Iggy e Ruth dal caffè e Iggy aveva portato una bottiglia di whisky che stava versando a Cleo in una tazza da tè per aiutarlo a restare calmo. Fu l'unica volta che io sappia in cui Cleo ha toccato un liquore. Iggy gli disse che capiva bene quello che provava. Lei aveva passato la stessa cosa quando Ruth aveva messo al mondo Stamp. Dicono che quando Sipsy gli diede per la prima volta Albert, Cleo scoppiò in lacrime. Solo più tardi scoprimo che il piccolo aveva dei problemi. Per prima cosa notammo che non riusciva a stare seduto. Ci provava, ma ogni volta cadeva sul fianco e non camminò fino a quando non ebbe compiuto 21 mesi. Lo portammo da tutti i dottori di Birmingham, ma nessuno sapeva dirci quale fosse il problema. Alla fine, Cleo pensò di portare Albert alla clinica Mayo per vedere se esisteva una cura. Gli misi il suo abitino da marinaretto con il berrettino. Era gennaio e pioveva quando Cleo e il bambino salirono sul treno e partirono. Il piccolo Albert si girò tra le braccia di Cleo per guardarmi. Vederli partire fu come ricevere una pugnalata. Quando tornai a casa mi sentivo sanguinare il cuore. Albert rimase ricoverato per 3 settimane. Venne sottoposto a una moltitudine di esami e ogni giorno io pregavo: "Ti prego, Dio, fa che non trovino nulla di grave al mio bambino." Quando tornarono a casa, per un'intera giornata Cleo non mi disse nulla di quello che avevano scoperto e io non gli feci domande. Forse non volevo sapere. Mi portò una fotografia di lui e Albert seduti su uno spicchio di luna con delle stelle sullo sfondo. Ce l'ho ancora sul cassettone quella fotografia e non la venderei neppure per 1 milione di dollari. Fu solo dopo cena, quando eravamo seduti sul divano, che mi prese la mano e mi disse: "Adesso devi farti coraggio." E io mi sentii morire. Mi spiegò che secondo i dottori il nostro bambino aveva avuto un'emorragia al cervello alla nascita. "Morirà?" gli domandai. "No, è sano come un pesce," rispose lui. "Lo hanno controllato dalla testa ai piedi." Quando mi disse questo mi sentii molto più leggera. "Grazie a Dio," mormorai, e mi alzai. Ma Cleo disse: "Aspetta un momento, cara. C'è qualcos'altro che devi sapere." Gli risposi che finché il bambino stava bene di salute il resto non aveva importanza, ma lui mi costrinse a sedermi di nuovo. "Dobbiamo discutere di una cosa molto importante," mi disse. E mi spiegò che anche se Albert era sano e poteva vivere a lungo, probabilmente le sue facoltà mentali avrebbero smesso di svilupparsi intorno ai 4-5 anni. Insomma, sarebbe rimasto un bambino per tutta la vita. E a volte il peso di avere un figlio così, un figlio che richiedeva costante attenzione, sarebbe stato insopportabile. Cleo mi disse che c'erano istituti speciali in cui... Lo interruppi a metà frase. "Un peso?" dissi. "Come potrebbe la nostra creatura diventare un peso per noi? A chi poteva essere venuta in mente una sciocchezza simile? Dal momento stesso in cui era nato, Albert era stato la luce della mia vita. Su questa terra non si è mai vista un'anima più pura di lui. E anche molti anni dopo, ogni volta che mi sentivo un po' giù, mi bastava guardarlo per tirarmi su di morale." Io dovevo continuamente sforzarmi di essere buona, mentre a lui veniva del tutto naturale. Non ha mai avuto un pensiero cattivo in tutta la sua vita, non conosceva neppure il significato della parola male. Qualcuno potrebbe non riuscire a consolarsi del fatto che il proprio figlio abbia subito un simile incidente alla nascita. Ma io penso che Dio abbia voluto così per evitare ad Albert di soffrire. Lui non ha mai saputo che a questo mondo c'è gente cattiva. Lui amava tutti e tutti amavano lui. In cuor mio sono tuttora convinta che fosse un angelo mandato da Dio e ci sono volte in cui non vedo l'ora di salire in cielo per riunirmi a lui. Era il mio bambino e mi manca tanto, soprattutto a Pasqua. La signora Threadgood si guardò le mani. E così sembra che dovrò restare qui ancora per un po'. Pensavo a un certo quadro che ho nella mia camera da letto, con una ragazza indiana che pagaia nella sua canoa lungo il fiume sotto il chiaro di luna. È completamente vestita, così chiederò a Norris di portarmela la prima volta che gli capita. La signora Threadgood pescò qualcosa dalla scatola dei salatini e il suo sguardo si illuminò all'improvviso. Oh, guardi, Evelyn, ho vinto un premio! Un pollo in miniatura! Quanto mi piace! E lo diede all'amica perché lo ammirasse. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 30 dicembre 1939. Macchine per cucire benedette, era una truffa. L'uomo che è passato dalla nostra città un paio di settimane fa, vendendo quelle macchine per cucire magiche che avrebbero dovuto farvi guarire mentre cucivate, è stato arrestato a Birmingham. Sembra che le macchine non fossero di provenienza francese, ma fossero state fabbricate a Chattanooga, nel Tennessee, e che non fossero affatto magiche. Biddy Louise Otis ne è rimasta sconvolta perché da quando usava quella macchina per cucire la sua artrite era migliorata moltissimo. I Boy Scout di Whistle Stop, Duane Glass e Vernon Hadley, hanno ricevuto le loro medaglie al merito, mentre Bobby Lee Scroggins è stato promosso lupetto. Come premio, il capo scout Julian Threadgood li ha portati a visitare la statua di ferro di Vulcano sopra Birmingham. Julian ha riferito che la statua è tanto grande da poter ospitare nell'orecchio un uomo in piedi. Ma chi potrebbe venire voglia di stare in piedi nell'orecchio di un altro, mi domando? Vesta Adcock ha dato una festicciola pomeridiana per le signore della Stella d'Oriente e ha servito cioccolatini fatti in casa. Per finire, Opal chiede per cortesia ai vicini di non dare più da mangiare al suo gatto Boots, anche se si comporta come se digiunasse da giorni e miagola in tono supplichevole. Mangia fin troppo a casa ed è a dieta perché il veterinario ha detto che è troppo grasso. Dot Wimps. PS, qualcuno ha visto il numero di dicembre del National Geographic della mia metà? Sostiene di averlo lasciato da qualche parte in città ed è addoloratissimo perché non aveva finito di leggerlo. Trutville, Alabama, 8 gennaio 1938. Da quando Iggy aveva appeso al caffè la foto di Fancy l'elefantessa, la figlia minore di Onsel e George, Naughty Bird, ne era rimasta affascinata. Supplicava il papà di portarla ad Avondale Park per vedere l'elefante e da allora non aveva altro per la testa. Era malata da più di un mese ormai. Il dottor Hadley le aveva diagnosticato la polmonite e se non fossero riusciti a darle da mangiare riteneva improbabile che Naughty Bird sopravvivesse un'altra settimana. Big George, chino sul letto, con in mano una ciotola di avena, la implorava: «Per favore, non vuoi mangiarne un cucchiaino per il papà?» Solo un cucchiaino per papà, piccina. Che cosa vuoi, bambina mia? Vuoi che papà ti compri un bel gattino? Naughty Bird, che aveva 6 anni e pesava solo 15 chili, se ne stava sdraiata e lo ascoltava distratta con gli occhi appannati. Vuoi che la mamma ti cucini dei biscotti? Domandò Onsel. Vuoi dei biscotti con il miele, piccina? No. Ci sono la signorina Iggy e la signorina Ruth. Ti hanno portato delle caramelle, non ne vuoi una? La bambina voltò la testa verso la parete tappezzata di foto ritagliate dai giornali e mormorò qualcosa. Onze si chinò su di lei. Che cosa hai detto? Vuoi dei biscotti? Voglio vedere Fancy, disse debolmente Naughty Bird. Onze si girò con le lacrime agli occhi. Capisce, signorina Ruth? Si è messa in testa di vedere quell'elefante e nient'altro, e non mangerà finché non l'avrà visto. Iggy e Big George uscirono sotto il portico e si sedettero su due vecchie sedie di metallo verde pallido. Lui fissò gli occhi sul giardino. Signorina Iggy, la mia bambina non può morire prima di aver visto quell'elefante. Non puoi andare fino ad Avondale Park, George. La notte ci stanno organizzando una riunione del Ku Klux Klan. Appena avrai messo piede oltre la cancellata sarai un uomo morto. Big George rifletté per qualche istante. Allora vorrà dire che mi uccideranno, perché c'è la mia bambina là dentro e preferisco essere morto sottoterra piuttosto che vederla finire così. Eiji lo capiva benissimo. Quel gigante di 2 metri, capace di sollevare tra le braccia un maiale adulto e trasportarlo come un sacco di patate, amava la figlia al punto che quando Onze la picchiava per una delle sue malefatte, lui doveva uscire di casa. E quando tornava la sera, erano T-Bird a corrergli incontro, ad arrampicarsi su di lui come su un tronco e ad aggrappaglisi al collo. La piccola poteva fare di lui quello che voleva. Quell'anno Big George era andato in tram fino a Birmingham per comprarle un vestito pasquale bianco come la neve, con le scarpe dello stesso colore. La mattina di Pasqua, Onzel era riuscita a raccogliere in 2 codini i capelli stopposi di Naughty Bird e li aveva legati con 2 nastri bianchi. Quando Sipsy l'aveva vista, con quella veste candida, aveva riso e le aveva detto che assomigliava a una mosca in un bicchiere di latte. Ma a Big George non importava nulla che la figlia fosse nera come la notte e avesse i capelli stopposi. La portava con sé in chiesa e la teneva seduta in grembo come se fosse stata una principessa. Più Naughty Bird peggiorava, più Iggy si preoccupava per Big George e per quello che avrebbe potuto fare. 2 giorni più tardi piove per diverse ore e quando finì faceva freddo e c'era grande umidità. Stamp rincasava da scuola, lungo i binari, respirando l'odore del fumo che si alzava dalle case lungo la ferrovia. Portava dei pantaloni marroni di velluto a coste e un giubbotto di pelle che aveva visto giorni migliori. Il freddo gli era penetrato nelle ossa. Quando arrivò al caffè, si sedette accanto alla stufa nel retro. Le orecchie, sgelandosi, cominciarono a scottare come fuoco. «Tesoro, perché non ti sei messo il berretto?» domandò sua madre. «Me ne sono scordato». «Non vorrai ammalarti, spero?» «No, mamma». Fu felice di vedere entrare Iggy. Lei raggiunse l'armadio, prese il cappotto e gli chiese se voleva accompagnarla a Birmingham, ad Avondale Park. Ci sarebbe stato anche Smokey. Lui non se lo fece ripetere 2 volte. «Sì, vengo!» «Sbrigati, allora!» «Un momento», intervenne Ruth. «Hai compiti per domani?» «Oh, pochi. Se ti lascio andare, mi prometti che appena tornato li farai?» «Sì, mamma. Tornate presto, vero Iggy?» «Sicuro, devo solo parlare con quel tale.» «D'accordo, ma mettiti il berretto, Stamp.» Lui corse fuori della porta. «Ciao, mamma!» Ruth diede il berretto a Iggy. «Cerca di tornare prima che faccia buio. Contaci e non ti preoccupare.» Saltarono in macchina e partirono per Birmingham. A mezzanotte in punto, Ruth, ormai disperata, ricevette una telefonata da Smokey, il quale le disse di tranquillizzarsi perché stavano tutti bene e appese prima che lei avesse modo di chiedergli dove si trovavano. Alle 5:45 del mattino Ruth e Sipsy erano già in cucina a preparare la colazione. Onzel era rimasta a casa con Naughty Bird che aveva avuto un peggioramento. Ruth era molto nervosa e angosciata per Stamp, Iggy e Smokey, che non erano ancora tornati. «Tornerà, tornerà», la rassicurò Sipsy. «Lei è fatta così, le piace improvvisare, ma non permetterebbe mai che al ragazzo accadesse qualcosa». Un'ora più tardi, mentre Grady Kilgore e gli altri stavano facendo colazione, si sentì suonare un clacson fuori del caffè. Poi, da lontano, si udì un suono di campanelli che divenne sempre più forte. Si precipitarono tutti alla finestra e non volevano credere ai loro occhi. Nella casa accanto al salone di bellezza, Opal, che aveva appena rovesciato una tazza di shampoo palmolive verde brillante sulla testa della sua cliente più mattiniera, guardò fuori del vetro e lanciò un urlo tanto assordante che la povera Biddy Louise Otis per poco non svenne. Fancy, tutta bardata con i suoi braccialetti di cuoio alle caviglie, le campanelle e il pennacchio, stava passando in quel momento davanti al caffè, la proboscide ondeggiante nell'aria, visibilmente incuriosita da quel cambiamento di scena. Era diretta verso Trotville. Quando Sipsy uscì dalla cucina e vide il pachiderma passare fuori dalla finestra, si precipitò nel bagno delle signore e chiuse a chiave la porta. Un istante dopo Stamp fece irruzione nel caffè. «Mamma, mamma, vieni a vedere!» e corse fuori trascinandosi dietro Ruth. Mentre Fancy percorreva con il suo passo ondeggiante le strade sterrate in direzione di Trotville, le porte si aprirono una dopo l'altra e l'aria si riempì delle grida deliziate dei bambini. I loro genitori, confusi e quasi tutti ancora in vestaglia e camicia da notte, con i capelli avvolti nell'asciugamano, erano senza parole. J. W. Moldwater, il domatore di Fancy, camminava accanto all'animale. La sera prima era stato sfidato da certi bevitori di whisky conosciuti al bar e aveva perduto la scommessa. Ora avrebbe desiderato che i bambini che gli correvano accanto saltellando come cavallette e strillando come pappagalli fossero stati un po' zitti. Si rivolse a Iggy che camminava accanto a lui. Dove abita? Mi venga dietro. Onzel, ancora in grembiule, corse fuori di casa e chiamò Big George. Lui arrivò dal retro, con in mano la scure con cui stava spaccando la legna, e rimase come paralizzato, incapace di credere a quello spettacolo. Poi vide Iggy e allora mormorò: Grazie, signorina Iggy, grazie di cuore. Posò l'accetta contro una parete ed entrò. Con estrema delicatezza avvolse la bambina in una coperta. C'è qualcuno venuto apposta per te da Birmingham, piccina, e la portò sotto il portico. Quando uscirono, J.W. Moldwater toccò la sua grinzosa amica con un bastone e la vecchia veterana del circo si sedette sulle zampe posteriori, salutando Naughty Bird con un barrito. Gli occhi di Naughty Bird si illuminarono e si riempirono di meraviglia alla vista del pachiderma. Ma quella è Fancy, papà, è proprio Fancy! Ruth prese sotto braccio Onze e le guardò il domatore con il mal di testa a guidare l'elefante fino al portico. Consegnò a Naughty Bird un sacchetto di noccioline e le disse che poteva darle all'elefante se voleva. Willy Boy spiava da dietro le tende. Anche gli altri bambini rimasero a distanza dal bestione grigio, grande come una casa. Ma Naughty Bird non aveva paura e offrì a Fancy le noccioline a una, parlandole come a una vecchia amica e raccontandole quanti anni aveva e quale classe frequentava. Fancy sbatteva le palpebre e sembrava ascoltarla. Prese le noccioline dalla mano della bambina una per volta, con la delicatezza di una mano guantata che prelevi un decino da un portamonete. 20 minuti più tardi, Naughty Bird salutò con la mano l'elefante e J.W. Moldwater intraprese il lungo tragitto di ritorno. Giurò che non avrebbe mai più bevuto un altro whisky e non si sarebbe mai più lasciato sfidare da degli sconosciuti. Naughty Bird entrò in casa e mangiò 3 biscotti al latticello spalmati di miele. Valdosta, Georgia, 15 settembre 1924. 2 settimane dopo che Ruth Jamison era partita per tornare a casa e sposarsi, Iggy andò a Valdosta e parcheggiò sulla strada principale di fronte alla redazione del giornale che si trovava vicino al barbiere. Un'ora più tardi smontò e attraversò la strada per entrare nella drogheria all'angolo. Assomigliava un po' al negozio di suo padre, ma era più grande, con i pavimenti di legno e soffitto altissimo. Passeggiò tra gli scaffali, guardando la merce. Dopo un po', un uomo quasi calvo con il grembiule bianco disse: Posso aiutarla, signorina? Che cosa le occorre? Iggy rispose che voleva dei salatini e 2 fette di quel formaggio esposto sul banco. Mentre l'uomo affettava il formaggio, lei chiese: Per caso sa se Frank Bennett è in città? Chi? Frank Bennett. Oh, Frank! No, lui di solito viene il mercoledì per andare in banca e qualche volta anche dal barbiere. Perché? Ha bisogno di vederlo? No, non lo conosco neppure, mi stavo solo chiedendo che tipo fosse. Chi? Frank Bennett. Lui le porse i salatini e il formaggio. Vuole anche qualcosa da bere? No, basta così. L'uomo prese il denaro di Iggy. Che tipo è? Vediamo un po'. Non saprei, un tipo qualunque, è piuttosto grosso. Ha i capelli neri, gli occhi azzurri, cioè uno degli occhi è di vetro. Ha un occhio di vetro? Sì, l'ha perduto in guerra. Per il resto direi che ha un bell'aspetto. Quanti anni ha? 34 o 35, direi. Suo padre gli ha lasciato 800 acri di terra a 16 chilometri a sud della città. Quindi non capita più molto spesso da queste parti. È simpatico? Voglio dire, la gente gli vuole bene? A Frank? Certamente, perché me lo domanda? Ah, per curiosità, mia cugina è fidanzata con lui, è così. Ah, lei è la cugina di Ruth. Quella sì, è una brava ragazza. È stimata da tutti. Conosco Ruth Jamison da quando era bambina. È sempre così educata. Insegna catechismo a mia nipote. Sta andando a trovarla? Iggy cambiò argomento. Forse è meglio che prenda anche qualcosa da bere. È quello che dico anch'io. Che cosa vuole? Latte? No, il latte non mi piace. Una bibita fredda? Ce l'ha una bibita alla fragola? Certo. Una allora. Lui andò a prenderla. Siamo tutti molto contenti che Ruth sposi Frank. Lei e sua madre hanno avuto una vita molto dura da quando il padre di Ruth è morto. L'anno scorso qualcuno di noi alla chiesa ha cercato di aiutarle, ma lei non ha voluto saperne di accettare un solo centesimo. È così orgogliosa. Ma sono tutte cose che lei saprà già. Si ferma da loro per qualche giorno? No, non le ho ancora viste. Sa dov'è la casa? A 2 isolati da qui. La posso accompagnare se vuole. Ruth la sta aspettando? No, lasci stare. A dirle il vero, sarebbe meglio se non sapessero che sono stata qui. Sono di passaggio per motivi di lavoro. Sa, vendo i prodotti della Rosebud Perfume Company. Davvero? Sì, e ho diversi altri appuntamenti prima di tornare a casa, quindi è meglio che mi metta in viaggio. Volevo solo accertarmi che questo Frank fosse un bravo ragazzo, ma Ruth non deve sapere che la famiglia si preoccupa per lei. Non vorrei che si offendesse. Così tornerò a casa e dirò a sua zia e a suo zio, che poi sarebbero mia madre e mio padre, che va tutto bene. E probabilmente saremo tutti qui per il matrimonio. A Ruth seccherebbe sapere che siamo venuti a chiedere informazioni, quindi è meglio che riparta immediatamente. Grazie mille. Il negoziante guardò uscire dalla sua drogheria quella strana ragazza in tuta. Ehi, non ha finito la sua bibita! Gridò. Ma lei non si voltò neppure. Il Corriere di Valdosta, 2 novembre 1924. Celebrate le nozze Bennett Jamison. Domenica Ruth Ann Jamison è diventata moglie di Frank Corley Bennett. Officiava la cerimonia il reverendo James Dodd. La sposa portava un vestito di pizzo bianco e aveva in mano un bouquet di boccioli di rosa. Il fratello dello sposo, Gerald Bennett, ha fatto da testimone. La sposa è figlia di Elizabeth Jamison e del compianto reverendo Charles Jamison. La ex signorina Jamison si è diplomata a pieni voti al liceo di Valdosta, dopodiché ha frequentato il seminario Battista per signorine ad Augusta. Ed è una conosciuta e stimata attivista della Chiesa in questa zona. Lo sposo, Frank Orly Bennett, si è anche lui diplomato al liceo di Valdosta, quindi ha servito per 4 anni nell'esercito, riportando ferite di guerra che gli sono valse una medaglia. Dopo una luna di miele di 2 settimane a Tallulah Falls, in Georgia, la coppia risiederà nella casa di famiglia dello sposo, 16 chilometri a sud della città. Al suo ritorno, la signora Bennett riprenderà a insegnare catechismo. Valdosta, Georgia, 1 novembre 1924. Era la mattina delle nozze di Ruth. Iggy aveva preso in prestito l'auto di Julian e alle 7 di quella mattina aveva parcheggiato di fronte alla chiesa battista. 4 ore più tardi vide Ruth e sua madre entrare in chiesa dalla porta laterale. Nel suo abito da sposa Ruth era proprio come Iggy l'aveva immaginata. Era proprio bella. Più tardi vide arrivare Frank Bennett e suo fratello. Rimase seduta in auto a osservare gli ospiti che entravano a uno finché la chiesa non fu piena. Quando l'usciere con i suoi guanti bianchi chiuse le porte, lei restò delusa, ma dall'esterno riuscì lo stesso a sentire l'organo attaccare la marcia nuziale, e allora si sentì anche peggio. Era dalle 6 del mattino che Iggy si attaccava a intervalli irregolari alla bottiglia di whisky, e poco prima che la sposa pronunciasse il fatidico sì, tutti in chiesa si stavano domandando chi fosse quel pazzo che in strada suonava distesa e clacson, disturbando la funzione. Dopo un minuto, Iggy sentì l'organo riprendere a suonare. All'improvviso le porte della chiesa si spalancarono e Ruth e Frank scesero di corsa i gradini ridendo, mentre gli invitati li festeggiavano lanciando loro il riso. I due sposi presero posto sul sedile posteriore dell'auto che li aspettava e partirono. Iggy suonò di nuovo il clacson. Ruth si girò proprio mentre stavano per svoltare l'angolo, troppo tardi per vedere chi fosse. Durante il tragitto di ritorno, Iggy dovette fermarsi più volte per vomitare fuori della portiera dell'auto di Julian.